already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Well, obviously we have a dramatic problem facing this country. We've lost 1.3. Million jobs this year, the market has lost a great deal. Eccolo qua, questo che balbetta e che è ufficialmente uno dei peggiori oratori della storia politica d'America, per noi è anche un po' un mito di questo indimenticabile 2008 elettorale, si chiama David Axelrod, sentitelo ancora. A uno dei peggiori eloqui televisivi, ammesso che esista un sottogenere di questo tipo, che si possa conoscere. Si chiama David Axelrod, ha strategicamente guidato in modo meraviglioso la campagna elettorale di Barack Obama e adesso, come vi ho già raccontato nei giorni scorsi, è a tutti gli effetti il suo principale consigliere, naturalmente non su questioni specifiche ma ancora di più su questioni generali. È l'uomo che sarà seduto in maniche di camicia su un divano, come vi ho già dipinto, insomma nella penombra dello studio ovale, ad ascoltare più che altro e poi magari dopo, quando gli ospiti saranno usciti, a dire che cosa pensa al presidente insediato Barack Obama. Presidente insediato, che per adesso è solo presidente eletto, ma che a tutti gli effetti, insomma, anche la stampa americana comincia a ironizzare sulla questione, ha aperto una specie di succursale della Casa Bianca e l'ha aperta a Chicago, dove si trattiene ormai ininterrottamente da quando ha vinto le elezioni, da dove sta governando il procedimento di transizione, ma da dove soprattutto sta già incominciando, e questa è la cosa che impressiona non solo gli americani ma il mondo, sta cominciando in anticipo a governare la nazione che lo ha scelto, che lo ha eletto. Non passa giorno che non arrivino comunicazioni, che non arrivino nomi, che non arrivino nomine e che non arrivino conferenze stampa. Anche oggi, come ogni benedetto giorno, avremo la conferenza stampa di Barack Obama, tra l'altro è attesa per le 10:45 ora americana est, quindi 16:45 ora italiana, quindi nella coda, nella parte finale del nostro programma, e riusciremo dunque a intercettarne almeno l'inizio, il senso e le indicazioni principali che Obama vorrà dare. Ma se intanto si volesse risalire a quella di ieri, eccolo qua, era la seconda in due giorni, prima della terza in tre giorni, ecco Barack Obama cosa ha detto. Yesterday we talked about the need to jumpstart our economy. I speak to you today, mindful. La questione ruota attorno alla formazione della sua amministrazione, perché ormai sono pressoché certe le voci della conferma del segretario della difesa americano, già ora in carica, il repubblicano Robert Gates, ripeto il repubblicano, quindi è qui Obama mantiene uno dei suoi propositi, ovvero quello di dar vita a una amministrazione bipartisan che tenesse conto prima delle capacità, dell'esperienza e dell'impatto, no, sulla risoluzione dei problemi che dell'appartenenza politica. Robert Gates manterrà il suo dicastero dunque nella amministrazione di Obama e resterà in carica perlomeno per un anno, poi dopo si vedranno quali saranno i risultati e i nuovi problemi. In ogni caso, in un settore chiave, importante e delicato come la difesa, fungerà da cerniera tra l'amministrazione Bush e quella democratica entrante. È il primo repubblicano del governo Obama, ci sono delle personalità di grandissimo rilievo che erano state poste, diciamo, in concorrenza con il suo nome, ma a questo punto non è detto che siano poste a fianco al suo nome, in particolare quelle del senatore Chuck Hagel e dell'ex segretario di Stato Colin Powell, un repubblicano che a sua volta, come forse ricorderete, ha dato la propria pubblica sponsorizzazione, il proprio pubblico sostegno a Barack Obama prima della elezione. Hegel del resto è sempre stato critico della guerra, è sempre stato in prima fila nella ipotesi di sostituire Gates e pare certo un alto incarico per lui all'interno del Ministero della Difesa. A Powell forse si potrebbe dare un indirizzo di responsabilità diversa. C'è chi parla del Ministero dell'Istruzione, del segretario all'educazione, all'istruzione, un compito che credo Powell accoglierebbe ancora con maggior gioia. Gates peraltro ha dato il suo assenso, anche questa notizia è delle ultime ore, avrebbe accolto la proposta di Obama di restare al Pentagono almeno per un anno, dando quindi in un certo senso anche un beneplacito politico, no, al progetto, all'idea, alla visione di Obama, che del resto proprio in un personaggio come lui, che ha dimostrato nell'ultima parte del mandato di George W. Bush, da che si occupa della difesa, di saper interpretare questo compito ben al di sopra dei comandamenti di ordine partitico. Tra l'altro, legata a questa notizia, ma legata anche ad altre notizie di cui parleremo nel corso della puntata di oggi, magari anche con i nostri ospiti, una notizia che ci interessa in particolare è quella che riguarda la Russia e il crescente nervosismo dei rapporti russo-americani proprio alla vigilia dell'insediamento di Obama, tanto da far pensare che quelle famose parole di Joe Biden, molto irrise e molto criticate a suo tempo, quando disse che Obama avrebbe dovuto fronteggiare subito, appena insediato, una terribile sfida di ordine internazionale, e tutti subito si pensò al solito Medio Oriente, e probabilmente Biden stava parlando di qualcos'altro, e forse la sua è stata una gaffe ben minore di altre e invece flagranti che ha commesso in passato. Comunque, lateralmente al discorso di questo irrigidimento dei rapporti con l'Unione Sovietica, arriva la notizia che gli Stati Uniti, fino ad oggi ostili al bando sul cluster bomb, no, BASM, di cui sono peraltro il primo produttore, le cluster bomb sono le micidiali bombe a grappolo, potrebbero invece a questo punto sottoscrivere il trattato che ne vieta l'uso e il possesso. È una convinzione espressa oggi da alcune organizzazioni non governative che confidano in un cambio di strategia proprio da parte di Barack Obama. Un centinaio di paesi, tra cui Francia e Gran Bretagna, devono formalmente firmare il 3 dicembre a Oslo. Questa è una notizia a cui forse non si sta dando sufficiente attenzione. Il trattato che vieta le cluster bomb e che era stato negoziato a maggio a Dublino al vertice irlandese, però non parteciparono grandi produttori di bombe a grappolo come appunto Stati Uniti, Russia, Cina e Israele. Si spera che le cose cambino dal 20 gennaio prossimo, ha dichiarato Thomas Nash, coordinatore internazionale della coalizione contro le cluster bomb, organizzazione che raccoglie circa 300 ONG, parlando naturalmente in riferimento all'insediamento di Obama. Ancora nomi: John Brennan, principale consigliere del presidente Obama sulle questioni dei servizi di informazione, invece è un altro di quelli che hanno detto no, perché ci sono quelli che dicono sì, ma ci sono anche quelli che dicono no. Brennan si è ritirato dalla corsa a un posto di dirigente nella nuova amministrazione proprio mentre si ventilava la sua nomina a capo della CIA. In una lettera indirizzata a Obama precisa di non volere apparire lui stesso come un problema. La sua possibile nomina ha suscitato infatti proteste sui blog liberali che ricordavano che Brennan sia legato all'amministrazione Bush, ai suoi metodi di interrogatorio, detenzione e trasferimento dei prigionieri verso destinazioni ritenute non rispettose dei diritti civili. È un veterano Brennan, 25 anni nella CIA, dove ha realizzato il Centro Nazionale Antiterrorismo. Un consigliere di Obama ha riferito che Brennan ha deciso da solo di ritirare la propria candidatura e di restare strettamente associato alla squadra del presidente durante comunque tutto il periodo della transizione. Allora, Allora, Obama mediatico. Obama arriva in televisione stasera in America con una grandissima giornalista, forse la più amata di tutte, si chiama Barbara Walters, una firma assoluta del giornalismo televisivo americano. Si siederanno Barbara e Obama. In realtà è già stata registrata l'intervista, anzi ne circolano già parecchi pezzettini, no? Parecchi segmenti sia online che sulle televisioni. Comunque si siedono per una chiacchierata sulla rete ABC, di cui poi ci saranno vari riflessi su diverse altre stazioni. Fra le tante cose discusse da Obama nel corso dell'intervista c'è per esempio la sua reprimenda nei confronti dei manager, soprattutto delle grandi aziende automobilistiche che continuano a spendere e espandere, continuano per esempio a volare a Washington a bordo di jet privati, e magari a Washington stanno andando a chiedere un finanziamento. Poi si parla nell'intervista di Afghanistan, ma si parla anche di come la famiglia Obama passerà la giornata del ringraziamento e del suo desiderio di rendere il presidente, la Casa Bianca, insomma, di rendere se stesso un po' meno isolato, no? Un po' meno in the bubble, come dice lui, dentro quella bolla che in un certo senso racchiude ma separa anche il presidente degli Stati Uniti dal resto del mondo. Poi c'è la notizia ancora legata alle nomine più importanti, spuntata negli ultimi minuti, ve ne riporto cenno, anche se credo che sarà l'argomento principale di Obama nella sua comunicazione delle 16.45, ora italiana, riguarda la scelta di un vecchio, in questo caso la parola è purtroppo inevitabile da usare, un vecchio saggio che piloti l'America fuori dall'emergenza. Il presidente Obama ha deciso infatti di nominare l'ex capo della Fed, Paul Volcker, alla testa di un nuovo organismo consultivo della Casa Bianca su come uscire dalla crisi economica di questi mesi. Del Consiglio faranno parte personalità indipendenti del mondo accademico ed economico. Il modello è quello del Comitato Consultivo delle Relazioni Esterne, creato da Eisenhower nel 1956 in piena guerra fredda. Volcker ha 81 anni, dopo aver presieduto la Banca Centrale Americana dal 79 all'87, viene richiamato in prima linea per la sua capacità di indagine e conoscenza delle problematiche dell'economia e della finanza americana. Sarà quello che darà i buoni consigli a Barack Obama. Mr. President, members of the International Olympic Committee, ladies and gentlemen, while I'm unable to be there in person, I want to take this opportunity to speak with you. E alla faccia della transizione e del periodo di riposo. Hosting the Olympic and Paralympic Games in my home city of Chicago. Eccolo qua. Obama ieri ha fatto un'altra conferenza stampa, ne fa, credo abbia un ufficetto oppure uno studiolo accanto al suo ufficio dove va lì e fa la conferenza, e ha parlato di Olimpiadi. Ieri ha offerto la propria sponsorizzazione ufficiale alla città di Chicago in qualità di presidente eletto degli Stati Uniti d'America per il conseguimento, per l'assegnazione delle Olimpiadi 2016. Sarebbe praticamente uno degli ultimi atti della sua presidenza se arrivasse al secondo mandato. Si poteva trovare uno sponsor più importante e più grosso di così? Sicuramente no. Anche questo entra a far parte di quella che abbiamo deciso di battezzare l'Obameide, insomma tutto questo mondo di notizie, curiosità, spigolature che circonda il neo presidente americano. Notizie come il fatto che per esempio ormai si senta perduto senza il suo palmare, perché i servizi segreti gli hanno proibito da adesso in poi di usare il suo BlackBerry. Dovrà spegnerlo, chiuderlo in un cassetto, tirarlo fuori fra 8 anni, quando sarà un modello vecchio, vetusto, chissà cosa si userà a quel punto. Non può usarlo perché per motivi di sicurezza, non solo, ma a causa della legge che si chiama Presidential Records Act, secondo la quale tutta la corrispondenza del presidente deve essere archiviata su richiesta del Congresso e resa pubblica, compresi evidentemente i messaggi messaggini. Pensate che scocciatura, non potrà più mandare messaggini. In compenso potrà presto mangiare cibo indonesiano, sempre capitolo 2 della Obameide, cibo indonesiano di cui è goloso perché visse alcuni anni della sua infanzia in Indonesia e vuole tornare in Indonesia, e lo ha detto al presidente indonesiano, che si chiama Susilo Bambang Yudhoyono. Vuole tornare e finalmente spararsi una bella porzione di nasi goreng, il riso fritto pieno di spezie, profumatissimo dell'Indonesia. Poi ha già preparato il menù. Di secondo vuole bakso, polpettine in brodo, e di terzo il rambutan, frutto di colore rosso bruno con la polpa bianca. Del resto anche lui, in qualità di neo presidente, si dovrà di tanto in tanto distrarre, perché poi, come abbiamo detto e come discuteremo tra qualche minuto, i problemi che lo attendono sono moltissimi, non ultimo il risveglio dell'orso russo. Take my advice, folks, and see Beale Street first. You see pretty browns. Il tempo è tiranno e dobbiamo interrompere Shirley Bassey, che a sua volta ci stava dando il suo advice. Non so se avete sentito lei i suoi avvertimenti, i suoi consigli. Ce li dava su come eseguire a dovere un Beale Street Blues, il blues di Beale Street. Ma torniamo a parlare di America dopo le notizie della borsa. Adesso invece andiamo a vedere un po' di ultime notizie. Prima pagina. Allora, intanto, Stefano, non so se hai visto i messaggi, ma ce n'è uno addirittura delle 15:57, quindi una decina di minuti prima dell'inizio della trasmissione, che ci fa una richiesta importantissima. Ci supplica di dare notizie di Paolo. Quindi possiamo garantire che tra poco, nell'ultima parte, ci saranno altre novità sul fronte lavorativo e soprattutto Giancarlo Davarese. Ma già ieri, caro Giancarlo, è tornato Paolo, e oggi Paolo ritorna anche parte. Oggi, certo. L'amore ci spiegherà molte cose interessanti. Certo. Invece, sul fronte delle notizie, segnalo che centinaia di operai licenziati da una fabbrica del Guangdong, questo motore economico della Cina che però non gira più a pieno regime perché ci sono difficoltà anche nella Cina dorata di questi anni, dal punto almeno di vista economico. Dicevo, questo centinaio di operai hanno inscenato violentissime proteste attaccando la polizia, i veicoli della polizia, e danneggiando gli uffici dell'azienda stessa. Si parla di 500 dipendenti licenziati, ai quali per la verità hanno offerto un po' poco come liquidazione, cioè soltanto un mese di salario. Mi sembra veramente una liquidazione veramente misera, che tra l'altro corrisponde a un centinaio di euro, quindi forse in parte la protesta di questi operai è giustificata. Certo. Questo ha scatenato, insomma, dei tafferugli, sono intervenuti oltre 1000 poliziotti che saranno arrivati lì con la violenza che spesso li contraddistingue. Insomma, le notizie parlano di manifestanti che hanno bruciato auto della polizia, rotto i vetri delle finestre degli uffici dell'azienda. Poi la polizia ha reagito e, secondo alcuni testimoni, almeno 5 lavoratori sono rimasti feriti. Poi vediamo ancora i messaggi. Miki ci scrive: ma è vero che Obama ha dichiarato sono le ultime settimane di libertà, perché dopo la cerimonia di insediamento sarò scortato 24 ore su 24? Vi ho appena raccontato la storia della rinuncia, no? del senso di vuoto che lo invade allorché arriverà il gigantesco, immagino, security, e gli dirà: scusi presidente, mi dà il suo BlackBerry. Di fatto non va ammessa, questa è una cosa che gli americani, devo dire, una notizia che hanno preso anche con un certo dolore, un certo dispiacere, perché insomma insomma, bene o male ha interpretato anche nei confronti della religione un certo ruolo. Adesso, siccome lo pedinano 24 ore al giorno, sanno che nelle ultime settimane non è andato a messa. Ne ha già saltate due, tre, no? Tre ne ha saltate, sì. Ufficialmente, come, perché ancora non si è scelto la parrocchia giusta, ma insomma non sono proprio questi gli insegnamenti, almeno. Poi ancora vediamo Simo che mi sgrida, ma io non ho detto, non ho tradotto liberale, insomma, fino a qua ci arrivo, se l'ho fatto è stato un lapsus, insomma, non mi ricordo di aver usato questa parola. Adesso controllo. Allora, dalla Cina arrivano notizie purtroppo terribili su Yang Jia, che è un personaggio di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, perché è un giovane che quest'estate aveva ammazzato sei poliziotti, quindi era stato condannato a morte, però si era scatenata una protesta popolare tutta a sostegno di Yang Jia, quindi contro la pena di morte, che in realtà in Cina ha vita più facile, diciamo, rispetto naturalmente a noi europei e in parte anche agli Stati Uniti, perché insomma la reazione del giovane che aveva portato alla morte di sei poliziotti era stata determinata proprio dalle violenze, dai maltrattamenti che aveva subito il giovane dai poliziotti stessi dopo che era stato fermato perché sospettato di aver rubato una bicicletta. Quindi si era creato un moto di opinione, un movimento di opinione a favore di questo giovane di 28 anni per non far scattare la pena di morte sui giornali, su internet, però purtroppo la pena è diventata esecutiva. Oggi è stato eseguita la condanna a morte, è stato condannato a morte il giovane a Shanghai, e con la solita freddezza le agenzie cinesi comunicano l'esecuzione. Poi rapidamente, perché è tardi, ma sta poco bene Barbara Bush, la moglie di Bush padre, la mamma di George W. Credo. Sì, sì, è del 25, quindi ha 83 anni, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Houston, Texas, dove abita per problemi, pare, allo stomaco. Si attendono ulteriori notizie e poi so che renderei molti di voi infelici con questo magnifico articolo intitolato Britney Spears feels old and boring. Britney Spears si sente vecchia e noiosa, per cui non vado oltre che enunciarvi questo magnifico titolo e passare alla musica. Dealing with my own biz, how they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number? I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo when it's gone. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. Beh, devo dire, gli anni passano, ma fa sempre un certo effetto quando sulle televisioni news americane appare quel cartello rosso alert. Parlano di minacce di attacco terroristico nella metropolitana di New York, che hanno convinto le unità di sicurezza a elevare il livello di controllo e di guardia, evidentemente. sono in possesso di qualche informazione e poi mettono lì la cartina della metropolitana di New York, insomma un brivido corre lungo la schiena. E poi queste immagini si alternano a quel ormai familiare palchetto, sito però a Chicago, si è fatto un po' in casa, insomma, in un certo senso, il presidente eletto, dove c'è scritto per l'appunto presidente eletto, perché tale è in questo momento Barack Obama, dove fra 10 minuti circa Obama rilascerà la terza comunicación in 3 giorni. Si tratta, come vi abbiamo anticipato, probabilmente di una comunicazione ancora una volta incentrata su questioni economiche, sull'annuncio dell'accordo raggiunto con Volcker per questa commissione di consultazione, di consulenza ai guai economici americani, ma tra poco lo sentiremo dalle parole del presidente eletto. Intanto, per ragionare su queste e altre questioni, abbiamo chiamato Guido Molteto, giornalista, il capo della redazione esteri del quotidiano Europa, nonché autore di un saggio che anche nel nostro paese sta riscuotendo notevole interesse, un saggio dedicato proprio a Barack Obama, intitolato Barack Obama, la rockstar della politica americana. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio a tutti voi. Ma io prima di tutto volevo con te riprendere, proprio a proposito di esteri, il filo di un discorso che stavamo facendo nella prima parte del programma, legato a quel famoso annuncio subito criticato, sbugiardato, addirittura beffeggiato, no, di Joe Biden, quando disse mi sa che Obama, il mio capo ufficio, il giorno che vincerà le elezioni avrà subito dei guai piuttosto grossi, delle grosse gatte da pelare sul piano internazionale. Tutti pensarono compattamente ai problemi ben noti in Medio Oriente. Adesso cominciano a uscire un numero cospicuo di articoli sulla stampa americana che dicono ma forse Biden non stava parlando di quello, forse Biden stava parlando di questa frizione crescente con mosse, contromosse e tutto il consueto scenario di diplomazia attiva nei confronti della Russia di Medvedev, che è culminata con addirittura delle esercitazioni navali davanti a Caracas, spostamento di varie testate missilistiche e con questa definizione di sfidante strategico della nuova Russia nei confronti dell'amministrazione Obama, che è una visione che tu condividi, sulla quale anche tu vedi piuttosto nero come molti articolisti americani, Guido? Ma guarda, la situazione secondo me è ancora da definire su tutti e due i lati, ma indubbiamente il fatto che la nuova amministrazione russa con Medvedev voglia avere un ruolo di primario sulla scena mondiale, e questo è un fatto che è noto da tempo, e indubbiamente forse approfittano di questa fase di transizione, di vuoto di potere, che poi in realtà non è tale, come stiamo vedendo in questi giorni, per affermare appunto questa vocazione a ritornare a una sorta di bipolarismo. Però penso che i problemi all'interno della Russia siano se non altrettanto gravi, forse anche più gravi di quelli che sta vivendo l'America in questo momento, perché certo, la crisi economica picchia duro all'interno della Russia. Lo stesso Medvedev deve ancora calibrare la sua leadership all'interno del paese. C'è un'ottima analisi sull'ultimo numero di Newsweek che vale la pena leggere, appunto, in cui viene spiegato bene questo momento un po' complicato anche per il Cremlino. Quindi non credo che se ci fosse al Cremlino ancora Putin, o comunque se la Russia fosse, certo, per esempio, due anni fa, con la forza che aveva in quel momento, con il gas e l'energia, probabilmente avrebbe avuto senso questo tipo di diagnosi, ma allo stato attuale io non vedo questo rischio imminente. Tra l'altro, l'arrivo al segretariato di Stato, se confermato, di Hillary Clinton, nel caso ci fosse stato ancora Putin, sarebbe stato un ulteriore accentuare dei problemi. I Clinton e Putin non sono mai stati particolarmente amici, no? Sì. Però intendiamoci, Putin rimane lì ancora, certo, perché è primo ministro, e quindi è Clinton segretario di Stato, quindi avranno ancora parecchio da discutere insieme, però qui parliamo di grandi sistemi paese, un po' al di là anche delle personalità, io credo. Ecco, stiamo in questi giorni facendo un giro d'orizzonte con gli amici del nostro programma Guido per capire come inquadrano, come giudicano, come vedono tutto ciò che di giorno in giorno si viene a sapere attorno a questo procedimento di transizione. Per ora sono soprattutto nomi, anzi cognomi e eventualmente curriculum, e come ciascuno di noi lo connette, lo inquadra in quello che era stato magari il progetto, la visione, l'annuncio fatto prima dell'elezione. Ecco, il tuo punto di vista su come sta andando questa fase, qual è, Guido? Ma io credo che tutti focalizzano l'interesse sul ritorno dei clintoniani dentro la macchina, la stanza dei bottoni, dove sembrava che dovessero uscire definitivamente. Ah, poi voglio aprire una parentesi a questo proposito. Si parla di Bill Clinton come possibile erede di Hillary per la poltrona del Senato. Questo sarebbe una cosa abbastanza interessante se accadesse, quindi sarebbe un ulteriore segnale che i Clinton non se ne vanno, essere messi da parte, invece occupano tutte le caselle disponibili. Certo. Però io da questo punto di vista credo che la portata della vittoria di Barack Obama gli consenta di fare da pacificatore. E l'idea che lui, noi dobbiamo ricordare anche che durante la campagna elettorale lui aveva battuto su due tasti apparentemente inconciliabili tra loro, ma che nel suo discorso invece lo erano, quello del cambiamento e quello della riconciliazione. La riconciliazione nel paese, di un paese lacerato, diviso, è una riconciliazione all'interno del Partito Democratico altrettanto diviso. Certo. E quello lo poteva dire perché il suo discorso, appunto, come è stato detto anche numerose volte, post ideologico, tutti i post del possibile del mondo, immaginabili, certo, consentivano di affrontare senza essere sospettato di essere un inciucista all'interno del partito. Quindi quello lui sta facendo oggi, avendo a disposizione un largo mandato. Quindi non penso che l'idea, come è stata anche accreditata da buona parte della stampa italiana, cioè che di un Obama abbastanza condizionato dai clintoniani, secondo me non è così vero. Diciamo che ci può essere oggi un patto tra il nuovo padrone, tra virgolette, del Partito Democratico e i vecchi padroni, in virtù del fatto che nel rapporto di forze che viene fuori dall'elezione lui ha ampi margini per dettare lui, diciamo, le condizioni di questo rapporto. Senti, Guido, rapidamente per concludere, ultima cosa, guardando un attimo in casa nostra, insomma, usciamo da almeno un semestre di entusiasmo giornalistico declinato in vari modi nei confronti di Barack Obama, dal sensazionalismo più puro all'analisi magari più approfondita. Ecco, se tu provi un po' ad annusare l'aria tra i colleghi, insomma, tra i giornalisti e sulle testate italiane dopo l'insediamento, come ti sembra sia la temperatura nei confronti di Obama? Ma io vedo ancora una situazione, un certo disorientamento. Molti colleghi, molti osservatori sono ancora. Il nome stesso di Obama associato alla presidenza, secondo me, fa ancora qualche effetto. Vedo questo tipo di smarrimento, quasi uno smarrimento, che devono ancora calibrare la relazione con il nuovo presidente. Secondo me è un po'. Nonostante tutto, nonostante il fatto che sia stato scritto tantissimo, detto tantissimo su Barack Obama, resta una figura enigmatica per molti aspetti è ancora un presidente difficile da definire come sarà, no? Interessante. Questo disorienta ancora, secondo me, gran parte della stampa. Interessante questa visione dei giornalisti, ancora non completamente convinti. Grazie a Guido Molteno, vi ricordo il suo libro sul presidente eletto, si chiama Barack Obama, la rockstar della politica americana. It calls out your name. It's a meaningful sign, but it makes no sense. So you pass on through with only one shoe and a mystified mind with an angel for a guide. There's a destination that's meant for me. But I'm weary of the soul on my innocent feet. Like a single sight, you know it's all you've got. So be sure to aim true with your eyes and full view. There's nobody you can accuse. The mirror reflects the bald truth, and from inside I feel bruised. The mask that I wear is unsure, unable to find a known cure, so I hide forevermore. This new board will perform a similar function for my administration as we formulate our economic policy. The board will be composed of distinguished individuals from diverse backgrounds outside of government, from business, labor, academia, and other areas, who will bring to bear their wisdom and expertise on the formulation, implementation, and evaluation of my administration's economic recovery plan. The board will report regularly to me, Vice President-elect Biden, and our economic team as we seek to jumpstart economic growth, create jobs, raise wages, address our housing crisis, and stabilize our financial markets. Let me speak to why I think this is necessary. Yeah, the reality is that sometimes policy making. Adesso spiega perché gli è sembrato necessario prima in diretta da Chicago, quella che giustamente Claudia, la nostra ascoltatrice, ci chiede se essere diventata la nuova capitale degli Stati Uniti per due mesi. Direi che la risposta è decisamente sì. Barack Obama sta presentando questa sua nuova iniziativa, questo board, questo comitato di esperti economici, capeggiati dal gigantesco, visto vicino a Barack Obama, che non è piccolo, è 1,80 m, quindi quelli sono 2 metri tutti, Paul Volcker al suo fianco, giovanile nonostante gli ultra 80 anni che si porta in spalla, incaricato di dare in tempo reale tutte le indicazioni, le correzioni necessarie alle rotte da seguire dalla nascente amministrazione Obama per pilotare l'America fuori dalle secche di questa crisi. Ascoltiamo ancora un attimo il presidente. Extensive experience managing economic crises and keen insight into the global nature of this particular crisis. Paul has served under both Republicans and Democrats and is held in the highest esteem. Paul ha servito sia sotto i democratici che sotto i repubblicani. Sta naturalmente stendendo le lodi dell'uomo al suo fianco, l'uomo nelle mani del quale in un certo senso si mette per scegliere le strade giuste da praticare. Ci sembra comunque un'altra iniziativa, oltre che estremamente anticipata, non vogliamo certo dire prematura, perché come hanno spiegato più volte quanti analizzano, insomma, la situazione americana, c'è poco tempo da perdere, la transizione è una bella cosa, ma i guai sono una cosa ancora più grossa, e quindi Obama si sta muovendo, sta facendo le sue nomine, e probabilmente già queste nomine, se non un effetto reale immediato, avranno un effetto di suggestione sui mercati e sugli operatori. Voglio leggere ancora un paio di mail mentre salutiamo Barack, che continua il suo discorso da Chicago. Alcuni messaggi, vediamo. Sempre sul presidente americano, lasciamolo queste domeniche poltrire a letto con la consorte. Poi ci mette anche lo smile, questa nostra maliziosa Cristina. Poi andrà a messa e farà tutto quello che deve. Per 4 anni non avrà più pace. Cristina che si firma una che gli farebbe volentieri la corte, caro Emiliano. E poi ancora Roberto dice: Britney Spears, old and boring. Old non saprei, musicalmente boring. Io non sono d'accordo neanche su quel boring, ma poi tutto converge. Tutti i messaggi convergono verso un unico nome, Paolo. Esatto, io vorrei su Paolo leggere rapidamente una mail che ci è arrivata ieri, perché quando Paolo ci ha spiegato che non potrà venire in Italia per Natale, perché insomma è una spesa impegnativa, peraltro dovrebbe venire accompagnato dalla fidanzata, molti si sono subito attivati, mobilitati, e in particolare c'è Valerio che ci ha scritto una bella mail che ci chiede perché non aiutarlo con una colletta di miglia premio con una compagnia aerea che lo può portare a casa. Lui si è proposto in prima persona come primo offerente di 20.000 miglia, quindi neanche poche. per il rientro di Paolo in Italia per le vacanze di Natale. No, ma le miglia ci saranno, bisogna vedere come si fa, come si può fare. Forse insomma, non sono cedibili. Credo siano di uso personale. Comunque sarà contento Paolo di questo fervore. Ci sono messaggi e messaggi che guardano in questa direzione. Poi, insomma, la parte organizzativa dobbiamo capire come può essere montata, ma diamo voce al nostro eroe. Ecco qua Paolo, che nelle ultime settimane intensifica i colloqui di lavoro, ci racconta il più importante con il suo inconfondibile stile dell'italiano in Cina. Ho fatto un colloquio per un ristorante italiano, però gestito da cinesi, cercava una figura del manager. Qui in Cina la figura del manager nei ristoranti è prevista per i clienti stranieri, quindi clienti non cinesi, che in un ristorante italiano, in questo caso, vengono, praticamente la figura del manager è quello che, appunto, sapendo almeno l'inglese, quindi deve seguire questi clienti, ecco, questo è quanto. Quindi una sorta di caposala un po' più ad alto livello? Sì, una cosa del genere, sì, ecco, diciamo. E appunto ho parlato con la ragazza italiana, che lei sta già ricoprendo questo ruolo, però per vari motivi, per vari impegni, si trova un po' a doverlo abbandonare almeno all'80%, poi lei continuerà un po' a rimanere lì. Insomma, ho parlato con lei, mi ha portato a vedere anche questo locale, è anche bello, un bel posto, e io la mia disponibilità al suo tempo, parlo di un 3-4 settimane fa ancora, gliel'avevo data, ma mi hanno detto che però, ovviamente, come è immaginabile, non ero l'unico in lista, che appunto ne c'era qualcun altro, e si trattava poi di provare, almeno di fare una prova, ma credo che il 99%, insomma, essendo passate ormai 3-4 settimane, credo che l'abbiano già trovato. Probabilmente, non so, perché loro cercavano almeno uno che parlasse inglese e meglio se anche il cinese. Infatti questa è stata la prima fatidica domanda, che la proprietaria cinese, ma che parla un ottimo italiano, perché è stata 15 anni in Italia, a Napoli, ma chiesto parli cinese, ho detto no, purtroppo non ancora. Paolo, devi studiare questo benedetto cinese, ormai se vuoi stare lì devi imparare il cinese. Lo so, però non è facile. E ora rapidamente, naturalmente, l'amore, l'argomento top. Sentiamo da Paolo come vanno le cose. Se togliamo la scorsa settimana, bene. Che è successo la scorsa settimana? Non la possiamo togliere, quindi no, è successo, sì, adesso non entro troppo nello specifico, ma c'è stato qualche problemino, è stata un po' movimentata la settimana scorsa. È un problema un po' che non è la seconda volta che torna a galla dalla scorsa estate, parlo del luglio circa, e niente, non spero che sia l'ultima volta. Ma se n'è andata di casa? Che ha fatto? No, non se n'è andata. No, ma negli ultimi 3-4 mesi, da quando è ritornata lo scorso 29 agosto dal suo paese natale, le cose sono andate molto bene, insomma, cioè avevamo trovato un certo equilibrio, una certa armonia, fino a una settimana fa. La settimana scorsa, per vari motivi, è tornato a galla una questione che era rimasta un pochino in sospeso, che ha reso un po' così complicata la settimana scorsa. Adesso la questione è passata, e voglio sperare è passata definitivamente, perché se dovesse ripresentarsi una terza volta, io glielo ho detto, una volta va bene, due anche, il detto dice non c'è due senza tre, spero che il tre non ci sia, perché altrimenti ci penserei bene, insomma, ecco. Ma lei sta continuando a lavorare al bar? Sì, lei è lì, sì. Fissa lì. Questo è legato un po' al vostro litigio, adesso non vorrei entrare naturalmente nella vostra privacy, però giusto per capire qual è l'oggetto del contendere. No, non ha a che fare con il lavoro, no, è una questione un po' extra, rimasta un pochino in sospeso ancora da un po' di tempo. Non abbiamo tempo sulla questione extra. La questione extra, lasciamo che la vostra fantasia voli alto. Questo era Jeff Suming di oggi. Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Cappini a Roma, Pietro La Corte a Milano, Jeff Suming a Radio24.it. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta domani alle 4 del pomeriggio qui da Radio 24 e ci risentiamo.